martelli, i martelli, il ferro. Il ferro si riduce a forza di scarpelli, il varro. Il varro si lavora, in onda il coro ignora, di ferro le martelli, di amore di sorello, da poli burre a segno, da porta a città. Siamo pazzi tutti quanti, chiediamo presso a tempi, si sprezzino